648. Dolce Roma. Un signore, che non ho il bene di conoscere, ebbe la gentilezza di mandarmi da Roma questa ricetta, della quale gli sono grato, sì, perché trattasi di un dolce di aspetto e di gusto signorile, e sì, perché era descritto in maniera da farmi poco impazzire alla prova. C'era però una lacuna da riempire, e cioè di dargli un nome che non ne aveva. Ed io, vista la nobile sua provenienza, ho creduto mio dovere metterlo in compagnia del dolce Torino e del dolce Firenze, dandogli il nome della città che un giorno riempirà di fama il mondo come in antico. Scegliete mele di qualità fine, non troppo mature e di media grossezza. Pesatene 600 grammi, che non potranno essere più di 5 o 6 di numero. Levate loro il torsolo col cannello di latta e sbucciatele. Poi mettetele a cuocere con decilitri 2 di vino bianco alcolico e grammi 130 di zucchero, avvertendo che non si rompano bollendo e voltandole e che non passino troppo di cottura. Levatele asciutte, collocatele col foro verticale in un vaso decente da potersi portare in tavola e che regga il fuoco, e versatevi sopra una crema fatta con latte decilitri numero 4, rossi d'uovo numero 3, zucchero grammi 70, farina grammi 20, odore di zucchero vanigliato. Ora montate con la frusta le tre chiare rimaste. Quando saranno ben sode, uniteci grammi 20 di zucchero a velo e con queste coprite la crema. Indi ponete il dolce nel forno da campagna o soltanto sul fornello del focolare col solo coperchio del medesimo, con fuoco sopra e poco sotto per rosolare la superficie. E prima di mandarlo in tavola, spalmatelo mediante un pennello col sciroppo ristretto rimasto dalla cottura delle mele. Potrà bastare per 7 o 8 persone.